Incontri di Gianfranco Fabi. E questa notte sarà meravigliosa con te, mentre mi stringi, mentre mi parli, sento che stai tornando da me, e questa volta sarà dannatamente bella. Con questa canzone di Emma, meravigliosa, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano e buongiorno a Gianluca Moretti. Buon pomeriggio anche lei. Grazie. E una canzone di Emma, una canzone che parla della notte, forse la notte c'entra qualcosa con la sua attività? Perché noi, governando la luce, ovviamente la notte è il momento, è il, diciamo, il clima, il... propedeutico a quello che è l'accensione dei nostri lampioni. E quindi una persona, Gianluca Moretti, che si occupa di luce, si occupa di lampioni, amministratore delegato dell'UMPI. L'UMPI, cosa vuol dire UMPI? Ma guardi, sono solo le iniziali dei fondatori. Diciamo che le persone che hanno inventato questa tecnologia circa 30 anni fa si chiamavano Piero Cecchini e Umberto, per cui di conseguenza hanno chiamato UMPI come le loro iniziali. In realtà il nostro sistema si chiama Minos System e è un sistema di telecontrollo, non proprio dei lampioni, governa la luce, governa i lampioni, ma non produciamo lampioni. Ecco, non producete lampioni, utilizzate i lampioni per i vostri sistemi, quindi è un'azienda italiana? È un'azienda che ha sede in Romagna, a Cattolica, è una tecnologia italiana, è ingegnerizzata in Italia, è prodotto in Italia e invece commercializzata in tutto il mondo. Quindi un'azienda globale che porta, non tanto porta la luce, perché i lampioni li fanno gli altri, ma come mai utilizzate i lampioni? Per che cosa? Diciamo che i lampioni per noi sono il contenitore della nostra tecnologia. Noi produciamo un oggetto che è delle dimensioni di un telefonino che viene inserito all'interno dei lampioni e governa tutto quello che è il flusso luminoso, e in più praticamente trasformiamo un lampione in un erogatore di servizi. E dove si trovano? Dove li avete venduti? Dove li state vendendo? Diciamo questi? Che in questo momento in Italia, tra le città più grandi, li abbiamo installati a Venezia, a Murano e alla Giudecca, a Bologna in cabina in serie e a Genova, poi in tantissimi altri comuni più piccoli che hanno installato questo sistema. Quindi all'estero, qualche esempio? All'estero, in Spagna il Principato d'Andorra è tutto abilitato con il nostro sistema, le città sante di Jeddah e Medina, in Sud America abbiamo illuminato una parte del Cristo Redentore. Quindi siamo un po' ecumenici. In Germania, in Francia. Illuminate l'Islam, certo, come illuminate appunto il Cristo di Buenos Aires, di Rio de Janeiro, non sì, di Buenos Aires, scusate. Ecco, quindi un sistema che serve a risparmiare energia e a fare dell'energia anche altri servizi. Diciamo che questo sistema permette di rigenerare i vecchi lampioni presenti sulle strade e trasformare ognuno di questi in un indirizzo IP. Se lei pensa che esiste un lampione ogni 30 metri e più o meno uno ogni 6 abitanti, fondamentalmente ce n'è uno di fronte ad ogni casa, ad ogni edificio e ad ogni monumento. Di conseguenza, per noi, nel momento in cui inseriamo il nostro dispositivo, questo lampione diventa attivo, come fosse un computer. Ecco, però ci vuole qualcuno che lo acquisti, lo installi, lo gestisca. Certo, diciamo che i nostri clienti di riferimento per la maggior parte sono le città, o gli aeroporti, o i grandi ospedali, o cose del genere. Perché questo? Perché ci sono un'innumerevole quantità di lampioni, che sono, come dicevo prima, il contenitore. E da questi fondamentalmente eroghiamo diversi servizi. Ecco, poi torneremo appunto su questo sistema, ma lei, Gianluca Moretti, come è arrivato a occuparsi di lampioni, ad essere appunto amministratore delegato di un'azienda che è leader in questo settore di nicchia, però molto, molto importante, soprattutto in prospettiva appunto di risparmio energetico, di servizi diffusi, di modernità in fondo? Come è arrivato a questa? Ma guardi, io lavoravo in tutt'altro tipo di settore, in tutt'altre aziende. Per potermi avvicinare a casa, visto la mia vita errante degli ultimi 15 anni, ho per caso conosciuto una persona che è Piero Cecchini, il fondatore dell'azienda, il quale mi ha dato incarico di trasformare l'azienda da un'azienda orientata al prodotto. Allora c'erano 16 dipendenti ed erano fondamentalmente un istituto di ricerca. quindi puramente tecnico, in un'azienda orientata al mercato. E in questi 5 anni mi sono dato da fare costruendo tutta l'organizzazione. Oggi siamo comunque una piccola azienda italiana, però sfioriamo i 200 unità, 140 sono sull'esterno in vendita e 60 interni. Beh, quindi una realtà comunque, una media impresa di alta tecnologia in cui si fa ricerca anche... Noi abbiamo un istituto di ricerca, fondiamo tutto sulla ricerca. Poi in realtà la differenza sostanziale è che prima questa azienda per un quarto di secolo ha venduto solo risparmio o ha fatto conoscere questo. Adesso è diventato invece un sistema che eroga servizi e viene pagato con i risparmi, che è proprio grazie al risparmio che va dal 25 al 45% dell'attuale che ci permette di finanziare l'impianto. Ecco, è possibile per una piccola impresa? Quali sono gli ostacoli maggiori che trova una media impresa nel fare ricerca? Allora, nella nostra è sicuramente una piccola impresa, però sta crescendo molto molto bene a ritmi oltre il 20-30% all'anno. Ma i due vincoli più grandi sono: uno, quello bancario, perché fondamentalmente in Italia non esiste sistema che permette di finanziare i progetti, per cui deve essere fatto con risorse proprie. E il secondo, per quanto riguarda il mercato pubblico, è la burocrazia, che per quanto sia blocca e inibisce spesso decisioni anche fondamentalmente positive. Quindi semplificare la burocrazia è uno degli argomenti fondamentali per tutto il mercato pubblico sicuramente. Ecco, i sindaci fanno veramente fatica a poter prendere delle decisioni in merito, anche se è conveniente. Quindi sia sul punto di vista vostro di realizzare la vostra attività, ma soprattutto dal punto di vista degli acquirenti, certo, verso cui voi sì, siete fornitori. I pubblici sono spesso in difficoltà, sebbene il sistema si autofinanzi con il risparmio. C'è molta differenza a vendere a un comune italiano e a vendere a un comune in un altro paese? Diciamo che ci sono 3 differenze. Il primo, la tempistica. Purtroppo tutto quello che è la legislatura italiana produce tempi lunghi di decisionali. Il secondo, l'instabilità, e il terzo fondamentalmente il patto di stabilità che esiste nei comuni italiani, che ha mille vincoli, e di conseguenza poter contemplarli tutti prevede spazi temporali molto lunghi. Ecco, voi mi diceva prima vendete risparmio e servizi, quindi noi sì, praticamente da ogni corpo illuminante diventa un distributore di servizi, per esempio wifi, videosorveglianza, ricarica biciclette elettriche, può interfacciare sensori di frana, di allagamento, di parcheggio e quant'altro, e di conseguenza agisce su quell'esistente. Per intenderci, non è necessario fare scavi, stendere fili e poi di conseguenza riasfaltare per poter erogare servizi come avviene oggi, ma si fa sulla linea elettrica. Ecco, se lei avesse di fronte un sindaco di un piccolo comune, qual è il motivo di fondo che dice ma acquisti questi miei apparati? Semplicemente perché l'illuminazione pesa in una città per è la terza o la quarta voce di bilancio. Di conseguenza, vista la non disponibilità economica, il risparmio generato è enorme e può immediatamente, avendo fondamentalmente la rete già installata, perché se dovessi installare una LAN devo scavare, questa è già esistente, noi abbiamo questo messaggio elettronico che corre sul filo, di conseguenza potrebbe dare ai cittadini immediatamente tantissimi servizi e finanziarseli con risparmio energetico. In quanto tempo si può ammortizzare uno dei vostri impianti? Mediamente il payback è tra 6 e 8 anni. Quindi cioè, è un sistema che ha una razionale prospettiva di dare... Assolutamente sì. Quindi, ecco, in questo senso, comunque, il vostro prossimo passo quale potrebbe essere? Guardi, adesso, per finire il discorso di prima, le volevo dire questo, che noi facciamo anche un finanziamento di 10 anni, fatto appositamente per rientrare dell'investimento prima ancora di aver saldato l'impianto. Diciamo che quindi è un impianto che praticamente non si paga, non si paga. Paga attraverso il finanziamento, vedremo se qualche sindaco ci ascolta, se lo potrà dire poi nei prossimi giorni. Incontri. Oggi il passato non conta, oggi va bene così, l'unica cosa che conta è che tu sei qui. È quando cade una stella, non sono mai quella che il desiderio più bello lo esprime. vive per sé. Ancora con la voce di Emma, con questa canzone meravigliosa, il titolo della canzone, riprendiamo il nostro incontro con Gianluca Moretti, amministratore delegato di Umpi, un'azienda, facciamo un breve riassunto della puntata precedente, anzi del particolare precedente, un'azienda di Cattolica che produce impianti che si collegano appunto ai lampioni stradali e forniscono servizi, aiutano al risparmio energetico e forniscono altri servizi per tutta la città. Per chi essenzialmente? Gianluca Moretti. Grazie. Fondamentalmente per gli amministratori pubblici italiani ed esteri e per i cittadini che noi ci auguriamo che nel prossimo futuro possano ottenere tutti i servizi che oggi vengono erogati in altri modi in ogni punto della città e magari gratuitamente. Quindi è un mercato vastissimo. Quanti sono i lampioni in Italia? Sono 10 milioni i lampioni in Italia, i comuni italiani sono 8.100, per cui di città ce ne sono anche in Italia, e anche se francamente guardando al futuro noi intendiamo aumentare la penetrazione nei mercati europei. Abbiamo appena iniziato uno scouting negli Stati Uniti e intendiamo aumentare quelle che sono tutto il comparto ricerca e sviluppo, alleandoci con università e istituti terzi per velocizzare il processo di diciamo di integrazione con i nostri sistemi. Ecco, parlavamo appunto in conclusione della prima parte dei possibili futuri sviluppi. Qual è il vostro prossimo obiettivo? Mi ha detto che fate molto ricerca. Sì, svilupperemo sicuramente la ricerca nell'ambito di tutti quelli che sono i servizi. Stiamo preparando una ventina di servizi nuovi, sempre da erogare con questo sistema, e di conseguenza agiremo sulla ricerca. Un altro degli obiettivi è quello di aprire una sede negli Emirati Arabi, che è un mercato molto molto interessante, in quanto per ora stanno disinvestendo negli immobili per investire in tecnologia. È il loro obiettivo nei prossimi 5 anni diventare il continente o l'area geografica più tecnologica al mondo. Quindi una sede commerciale, non avete intenzione? Una sede commerciale, una sede che comunque interfaccerà le università locali. Quindi ecco una sede operativa che avrà anche delle funzioni di ricerca, delle funzioni di sviluppo per realizzare dei prodotti adatti a quei paesi. Esattamente. La tecnologia, pur essendo italiana, concepita e strutturata e prodotta in Italia, che oggi se vogliamo è un'anomalia, perché comunque i costi di produzione sono molto più elevati, noi la distribuiamo da qui in tutto il resto del mondo, anche se così un po' macchia di leopardo in a parte l'Europa e l'Italia, dove è strutturata certo. Con una rete. E non avete mai pensato di andare a delocalizzare la produzione in Corea, a Taiwan? No, perché l'unico motivo per cui si poteva delocalizzare è quello del risparmio. Per noi invece è importante la sicurezza. Lei immagina un dispositivo inserito in una galleria, che significato avrebbe bloccare il traffico di una galleria per un dispositivo posto in un corpo illuminante? Un costo drammatico, un disservizio grandissimo, per cui tutta la produzione viene fatta in Italia, controlliamo ogni singolo pezzo a favore della qualità. Quindi la qualità innanzitutto, la qualità è fondamentale nel vostro. Chi sono i vostri concorrenti? Noi abbiamo dei concorrenti, 4-5 per quelli conosciuti al mondo, che però in realtà non producono lo stesso prodotto, ma dei, chiamiamoli surrogati, dei prodotti che fanno a volte servizi simili, ma si basano su tecnologie completamente differenti. Oggi, se vogliamo, è un'unicità. Possiamo dire che siete leader mondiali? Possiamo dire che il prodotto è unico. Possiamo dire che fondamentalmente abbiamo 500.000 punti intelligenti inseriti in tutte le città europee. Possiamo dire che oggi alcuni premi mondiali li ha presi la nostra azienda proprio sulla tecnologia. Abbiamo dei brevetti italiani ed internazionali che un po' proteggono questa nostra know-how. Come sono i giovani che escono dalle università italiane, gli ingegneri? Ma guardi, noi abbiamo assunto 54 persone negli ultimi 20 mesi. Direi che partendo dal presupposto della buona volontà, direi che è stata una sorpresa positiva, perché all'interno dell'azienda si è creato un gruppo molto molto affiatato, proiettato tutto in avanti, e parte di questi, 18 di questi, sono anche entrati nella compagine sociale delle varie aziende, delle nostre piccole società, per cui partecipano direttamente al business. Per cui direi che tutto quel che si dice è vero in parte, oppure siamo stati molto fortunati. Ecco, lei come amministratore delegato si sente un po' il Marchionne dell'Umpi? Guardi, io mi sento il nonno dei miei ragazzi, visto che comunque c'è, io forse sono uno dei più vecchi dell'azienda, l'età media è di 32 anni. Qui lei con 35. Sì, esatto. Sento, no, guardi, in realtà mia figlia è già 12 anni che mi dice che sono anziano, per cui... No, comunque, ecco, giovane comunque. Guardi, giovane. No, mi sento solo capofila di un progetto pensato e ideato 5 anni fa, che fonda su una tecnologia leale, non inventata da me, ma dei fondatori, e che si cala perfettamente in un momento in cui tutto il mondo parla di smart city, tutto il mondo parla di rinnovabili, tutto il mondo parla di sicurezza, di risparmio, per cui noi siamo calati in una opportunità grandissima. Ecco, c'è anche un po' di orgoglio italiano in tantissimo, questo. Tantissimo, per quanto sia, molte volte in Germania o in Svizzera sono stupiti che oltre alla pizza, la mafia e la pasta ci sia anche... Ma diciamo che oltre alla moda, perché poi per fortuna... Ma perché però insomma amano denigrare l'Italia spesso per diciamo legare semplicemente a queste cose del passato. Quindi è una sorpresa che l'Italia possa fare dei prodotti di alta tecnologia. Soprattutto nell'elettronica, cioè vuol dire in questo settore, nel nostro settore elettrico, l'Italia non è mai stata fondamentalmente una nazione certo. Proiettata al segmento tecnologico, voglio dire, non paragonabile. Anzi, l'ha abbandonata perché aveva delle potenzialità, pensiamo all'Olivetti, che è stata un po' una speranza perduta sul fronte della transizione all'elettronica. Sì, poi dopo... però per esempio noi con Olivetti abbiamo iniziato comunque dei rapporti, perché si comportano a man contratto in alcune aree tipo Sud America, per cui in realtà ci sono aziende italiane con cui collaboriamo, come questa che ha appena detto. Ecco, ma lei diceva non pensate appunto di trasferirvi, anche perché forse in una cattolica in Romagna si vive bene. Ma sì, la qualità della vita non è male. Non pensiamo di trasferirci perché adesso abbiamo costruito un gruppo di persone che hanno veramente una grande cultura in materia, considerando che il settore è veramente molto giovane. Di conseguenza non abbiamo intenzione, però abbiamo intenzione di fare alleanze, partnership con piccole, medie o grandi aziende nel mondo, in modo da unire le competenze. Ecco, ma è vero che anche per un'azienda con le nuove tecnologie di informazione e di comunicazione, dove si è in fondo è meno importante che in passato? Assolutamente sì, e soprattutto nel nostro settore, però un nucleo è secondo me necessario comunque, chiamiamola casa madre, e quindi la mia intenzione è quella di fondare in questo territorio il nucleo centrale e poi allargarci nei vari spazi. Come va l'economia locale in Romagna? Ma guardi, le dico solo quello che sento, perché non sono coinvolto nel comparto turistico, però questa crisi fondamentalmente ha dato sviluppo. La stagione di quest'anno, che si è allungata di un mese, ha dato un impulso positivo, per cui per quello che sono le voci, diciamo, locali, il turismo è andato particolarmente bene quest'anno. Cioè non ci sono solo nebbie, c'è anche qualche raggio di sole, insomma. No, quindi in prospettiva, ecco, una crescita sotto il profilo tecnologico, una crescita alla ricerca di nuovi prodotti, di nuovi mercati. Su quali mercati puntate adesso? Puntiamo in questo momento qui a tutto il mercato arabo, a quello degli Stati Uniti e a quello di una parte dell'Europa, quella dell'Ovest. Ecco, e Gianluca Moretti come persona come vede il proprio futuro? Se potesse avere un'ambizione, certamente quella di fare dell'Umpi una grande società di 1000 persone. Non di 1000 persone, di fare una media società, e diciamo che mi piacerebbe trovare dei partner internazionali con cui condividere questo percorso, questo successo, partendo dalla nostra tecnologia, ma allineandoci ad aziende che hanno altre competenze per poter fare una grande azienda comune. Ecco, quando parla di partnership è sempre un po' difficile fare delle alleanze alla pari, a volte si rischia di essere... Può essere un'alleanza non alla pari. Cioè di acquisire qualcuno. Ma può essere anche semplicemente uno scambio, però uno scambio azionario o comunque dei collegamenti o dei contratti che blindino il rapporto, perché ognuno porta le sue competenze. Avete mai pensato di andare in borsa? Ci abbiamo pensato, siamo ancora piccoli, è un progetto nel cassetto. Anche perché i mercati finanziari in questo momento non brillano, certo. Beh, per dinamismo. Però sull'energia sono meno in contrazione. Ecco, voi vi potete definire un'azienda, una green economy, da green economy un'azienda Ma verde? Ma guardi, secondo me c'è stato un cambio, una sorta di rivoluzione, passando da new economy forse alla new energy. Quindi questa è new energy, quindi risparmio energetico? Assolutamente dentro questo mercato. Quindi non vi interessate di come si produce l'energia, cercate di consumarla il meno possibile. Perché secondo noi ci sono modi per generare energia, il fotovoltaico, l'eolico, dove tanto si è detto e dove c'è di tanto, ma c'è anche un altro sistema, quello di risparmiare l'esistente. La somma dei due probabilmente messa in discussione l'utilizzo o meno del nucleare. E quindi ecco, risparmiare l'esistente e con l'esistente fare anche altre cose, moltiplicare le opportunità. E i servizi a tutte le persone. E quindi ecco, una città moderna è una città che sa risparmiare e che offre servizi a portata di mano. Esattamente. Ecco, quindi in questa prospettiva un obiettivo per il futuro, quale grande città volete illuminare? Ma guardi, a noi piacerebbe molto illuminare Venezia. Ci siete già però, in parte. In parte sì, ma oggi abbiamo molti più servizi. Ma soprattutto per non perché Venezia diventi un museo, perché diventi più vivibile per i veneziani. Sì. Un'altra città che secondo me ha una particolare sensibilità adesso è Torino. Nell'ambito di Torino Digitale la volontà è quella di creare proprio un modello europeo a portata di cittadino. Quali sono i suoi hobby principali quando non pensa all'elettricità e ai suoi servizi? Uno dei miei hobby è la cucina. E quale piatto? Assolutamente il pesce. Io nasco da una famiglia che di origine erano dei pescatori, per cui a casa mia il pesce è sempre stato tantissimo, e a forza di vedere i miei nonni, i miei genitori, mia madre cucinare, mi è venuta la passione. Ecco, siamo nel primo pomeriggio, auguriamo una buona digestione a quanti ci hanno ascoltato. Una ricetta di pesce che può consigliare? Ah, guardi, in Romagna c'è un umido di pesce fatto col pesce pescato misto che si chiama brodetto, sicuramente quello. Ma questo essere. Non è più una specialità delle Marche? No. O forse magari lo fanno anche nelle Marche, ma o anche in Toscana con nomi diversi. Si chiama cacciucco forse, quindi il brodo in realtà era il pesce che rimaneva invenduto, i pescatori lo cucinavano in maniera molto tradizionale e di conseguenza è diventato diciamo tipico. Quindi un brodetto come conclusione, auguriamo di poterlo mangiare fatto bene in Romagna, nelle Marche o in Toscana o in Italia, una cosa che forse non è tecnologicamente avanzata, però sicuramente buona e abbiamo sposato un po' la tradizione con l'innovazione. Grazie a Gianluca Moretti di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Luca Cremonese in redazione, Stefania Tagliaferri in redazione appunto, in regia Roberto Scaltritti. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.